Capitolo 5. Le mura rinascono. Montagnana, primavera 2144. La notizia arrivò con un mercante di stoffe da Castelbaldo. Si chiamava Renzo e ufficialmente veniva a vendere tessuti alle mogli dei soldati del presidio. In realtà portava qualcosa di molto più prezioso nascosto nel doppio fondo del suo carro. Milo lo incontrò nel retrobottega di Fante il calzolaio, in una sera di maggio che profumava di terra smossa e di erba nuova. «Da Castelbaldo mandano saluti», disse Renzo, posando sul tavolo un rotolo di pergamena consumata. «E mandano anche questo». Bertone aprì il rotolo e lo lesse lentamente, muovendo le labbra. Poi alzò gli occhi con un'espressione che Milo non gli vedeva da molto tempo. «Rinaldo da Castelbaldo ha posto alla piazzaforte 400 soldati», disse il vecchio, con la voce di chi stenta a credere alle proprie parole. «80 a cavallo, una guarnigione vera, non una pattuglia. Controllano la via dell'Adige e tengono a bada gli uomini di Ezzelino da est. Castelbaldo regge», disse Simone il mugnaio, con una soddisfazione contenuta ma visibile. «Non solo regge», disse Renzo. «Gli armigeri di Castelbaldo hanno fatto sapere che sono pronti a muoversi. Aspettano solo il segnale. Se Montagnana si solleva, loro arrivano lungo il fiume». Il silenzio che seguì era denso come miele. «Allora dobbiamo essere pronti», disse Milo. «Quando loro arrivano, noi dobbiamo già tenere qualcosa. Una porta, una torre, qualsiasi cosa che gli apra la strada». «Parli come un capitano», disse Bertone. «Parlo come un ragazzo che non vuole sprecare l'unica occasione che abbiamo», rispose Milo semplicemente. Fu in quei giorni che conobbe Giacomo. Era un ragazzo di poco più di 15 anni, con i capelli rossi come il grano maturo, e una risata facile che sembrava fuori posto in quel tempo di guerra, ma che si rivelò essere una delle armi più efficaci del gruppo. Nessuno sospetta di chi ride. Suo padre Corrado, una sera, posò sul tavolo un cardine lavorato con una piccola leva nascosta nella cerniera, che, se azionata nel modo giusto, avrebbe permesso di smontare il portone dall'interno in pochi secondi. «Ho installato il primo su un portone secondario delle mura nuove», disse Corrado, con la voce piatta di chi riferisce un fatto tecnico. «Nessuno se ne è accorto». «Quanti portoni?» chiese Milo sottovoce. «Per ora uno. Ma ho tempo». Quella notte scrisse un messaggio breve e lo affidò a Renzo il mercante di stoffe. Il messaggio diceva solo: «Siamo pronti. Aspettiamo la primavera». Non era ancora la primavera giusta, ma si avvicinava. E le mura nuove di Montagnana salivano verso il cielo, pietra su pietra, costruite dalle mani del nemico e già pronte, in qualche angolo nascosto che solo un fabbro sapeva trovare, ad aprirsi per chi avesse la chiave giusta.